Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Dovevano restare in città ancora una settimana. Kate ricevette una lettera drammatica di Rachel. «Devi scegliere, o Jim o le tue figlie». «Niente affatto», disse Jim. «Jim e le tue figlie». «Bah», disse Kate. «Quando si avvicina la fine bisogna tagliar corto. Sacrifichiamo la nostra ultima settimana». Ed ebbe un gran desiderio condiviso da Jim di rivedere le bambine, Jules, Mathilde e lo chalet. Partirono l'indomani. Jules li aspettava nella piccola stazione, sullo stesso marciapiedi dove Kate era caduta. Lei saltò a terra prima che il treno si fermasse, corse a lui, lo cinse con le braccia e gli diede un lungo bacio. «Racconta», gli disse, «racconta tutti i miracoli che sono accaduti anche qui». Jules cominciò a narrarle sorridendo la loro piccola vita a quattro, aspettando il ritorno della mamma. Uscendo dalla stazione, Jules fece per lasciarli e andare a prendere il latte. Lei cercò di trattenerlo, ma lui perseverò. Si allontanò agitando una mano. «Ecco com'è Jules», disse Kate. «Io torno, lo bacio, sono felice e lui mi lascia per andare a prendere il latte». «Sarà di ritorno fra 5 minuti», disse Jim. «Sì, ma ormai la gioia di rivederlo è sciupata». Le bambine e Mathilde fecero a Kate un'accoglienza adorante, che di riflesso toccò anche Jim. In una giornata di gran caldo andarono tutti e tre a piedi in pellegrinaggio a un vasto e massiccio monastero, in fondo a un lungo vallone umido e fertile. L'armonia fra loro era completa. Amarono l'ascetismo del grande refettorio bianco, il cibo fresco e frugale. Visitarono le stalle imponenti che ospitavano del bestiame che ai concorsi vinceva i primi premi. Kate lo commentò da intenditrice. Spiegava loro ogni cosa, fiera di aver lavorato per qualche settimana in una fattoria. Jules e Jim capirono il richiamo della terra, ma si sentivano incapaci e indegni di fronte a lei. Kate avrebbe voluto comprare una grande fattoria, ma il denaro di Jules era già troppo diminuito. Tornarono indietro, costeggiando un corso d'acqua che a tratti si faceva impetuoso e a un certo punto formava una cascata. Trovarono che la massa d'acqua che veniva giù assomigliasse a Kate, i mulinelli furiosi a Jim e l'allargarsi quieto che seguiva a Jules. Incontrarono vaste spianate, un paradiso di banchi di sabbia e di sassi bianchi. Vi scesero e giocarono. Lanciare pietre era uno dei piaceri di Jim e le rotonde munizioni non mancavano. La pietra saliva alta e prima che ricadesse lui ne gettava un'altra incontro a quella. Kate gliene fece lanciare fino a non poterne più. Lei e Jules impararono a farle rimbalzare sull'acqua. Il cielo era vicinissimo. Arrivò ottobre. Di Albert nessuno parlava. Fu un calmo periodo, senza storia, vicino alle bambine e a Mathilde. Kate e Jim erano sportivi e davano volentieri l'esempio. Un giorno per uscire da un prato recintato, nel momento in cui sopraggiungeva un gruppo di contadini, hop, Kate e Jim si sollevarono insieme, leggeri, puntando le mani sullo steccato. Sarebbe stato un bel salto, ma lo steccato era marcio e cedette. Loro rotolarono sull'erba. I contadini passarono oltre senza guardarli. Novembre. La presenza di Jim a Parigi diventava necessaria. A Parigi aveva sua madre e il suo lavoro. Sarebbe forse dovuto non partire mai. Per Kate quella partenza respingeva il loro amore in un relativo che lei non poteva ammettere. Jim sarebbe stato di nuovo lì a primavera, ma per una Kate quant'acqua sotto i ponti fino ad allora. Ancora una volta lei lo accompagnò in città. Quante volte avevano preso insieme quel trenino pieno di fumo. Si tenevano le mani. Lei s'era tolta i guanti. Uno di questi, rovesciato, posato sulle sue ginocchia, aveva la forma di un cuore con l'aorta tagliata. «Guarda, il mio cuore sulle tue ginocchia», disse Jim. Giorno dopo giorno, in città, Jim ritardava la partenza. Davanti alla sua imminenza spingevano i loro limiti sempre più lontano e respiravano come vittime di un incantesimo. Un pomeriggio telefonarono insieme a Jules dalla cabina isolata di una birreria. Jim stava in piedi dietro a Kate, le sfiorava la schiena nella penombra, aspirava il suo odore, quasi svenne. Pensavano alla morte come a un frutto dell'amore, qualcosa che avrebbero raggiunto insieme, forse domani. Kate fece conoscere a Jim durante un pranzo con parecchi amici e amiche Harold, lo sportivo che era stato suo amante ancora alla vigilia del suo matrimonio. Jim non provò nessuna diffidenza verso di lui. Gli sembrava che Kate fosse invulnerabile come lo era lui stesso. Harold, ben vestito, ben fatto, buon cavaliere, aveva appena vinto una corsa. Tirava anche di box, come Jim. Disinvolto, intelligente, guidava a colpi di parole, esclusa Kate, il gruppetto di donne sedute al suo tavolo, come un eschimese guida a colpi di frusta i cani della sua slitta. Per Jim era inconcepibile che potesse esserci stato amore vero tra Harold e Kate. L'assolutismo di Kate vi si opponeva. Jim andò da solo a vedere un film che Kate conosceva già e che aveva intenzione di comprare. Nel frattempo, Kate andò a far spese con Harold. Dopo Jim li raggiunse, presero il tè. Harold, sicuro di sé, chiacchierò con Kate molto in fretta e molto seccamente, ma con una voce un po' rauca che più di ogni altra cosa rassicurava Jim. Il loro solo contatto fu la comune predilezione per certi pittori. Arrivò l'ultima notte. Kate si accovacciò, Venere in una conchiglia, nell'ampio lavabo della loro camera. La partenza sarebbe stata straziante per Jim, senza la certezza che si sarebbero ritrovati presto, intatti, quali si lasciavano. Quando il treno si mosse, agitarono a lungo e lentamente le mani. Jules aveva dato loro una sorta di benedizione. Aveva abbracciato Jim, che partendo gli affidava Kate, perché volevano sposarsi e avere dei figli. Gilbert Albert Fortunio. Jim tornò a Parigi. Qui aveva ormai da anni, a intervalli e leggero tanto da non sentirne il peso, un amor tenero, Gilbert. Ma questa è un'altra storia. Invece di picchi ghiacciati, di landeri arse, di uragani e di tifoni, come nell'amore di Kate, quest'amore offriva allo sguardo un paesaggio piano e terso, a clima temperato, in cui la luce del cielo era il solo avvenimento. Jim non era mai stato privato e da lui non si pretendeva nulla. Gilbert e Jim si erano incontrati poco dopo i 20 anni. Si trattò dapprima di un'affinità di caratteri, di un'amicizia amorosa. Tacitamente avevano stretto un patto contro l'amore e passione. Si erano amati con tatto, in segreto, senza mischiarvi né amici né curiosità, né questioni materiali. In un minuscolo appartamento arrampicato in alto, con un ampio panorama affittato da Jim a questo scopo. Si incontravano lì per un giorno intero, una volta alla settimana. Vedendosi poco, si davano solo la parte migliore di se stessi. Né avrebbero voluto vedersi di più. Avevano ciascuno la sua vita. Una volta all'anno passavano 8 giorni in campagna. Mai Jim era stato a casa di Gilbert, mai Gilbert nel vero appartamento di Jim. Avevano fatto dei viaggi, ognuno per conto suo, Jim talvolta per degli anni interi, si erano sempre ritrovati. Non li legava alcun impegno. Passarono 10 anni in un soffio. Gilbert un giorno parlò di sua madre, che aveva perduta all'età di 5 anni. Mostrò a Jim una fotografia di quando orfana l'avevano messa in una scuola materna ad aspettare che una zia venisse a prenderla. In quella fotografia, in mezzo alle compagne, Gilbert aveva un'aria così smarrita e così onesta che Jim, una volta per tutte, senza saperlo, aveva adottato quella bambina. Qualche anno dopo Jim le chiese se non volesse sposarlo. Esaminarono tranquillamente la questione. Andarono insieme da un medico eugenista che predisse loro figli gracili. D'altra parte avrebbero dovuto dividere per qualche tempo l'appartamento della madre di Jim, il che spaventava Gilbert. Decisero di lasciare le cose come stavano. Soltanto Jim aveva detto a Gilbert: «Se lo desideri, invecchieremo insieme». E Gilbert aveva detto a Jim: «Se un giorno vorrai fondare una famiglia, avere dei figli, io mi farò da parte». In 17 anni Jim non aveva avuto mai niente da rimproverare a Gilbert. Si sentiva libero di sposarsi, ma non di abbandonare moralmente Gilbert. Fra i soprannomi che l'aveva dato figuravano quelli di onestà e moderazione. Gilbert immaginava che lui avesse delle avventure durante i suoi lunghi viaggi all'estero, ma era sempre tornato da lei. Jim non aveva alcuna idea sulla fedeltà di Gilbert, ma questa gli parve sempre più probabile. Non poteva lasciarla, così come Kate non poteva lasciare Jules. Bisognava che Jules non soffrisse e Gilbert neppure. Erano i frutti diversi del passato, uguali e simmetrici. Kate e Jim dovevano essere buoni con loro. Forse Gilbert avrebbe un giorno accettato quel che Jules accettava già. Forse avrebbero potuto vivere tutti e quattro nella stessa grande casa di campagna in cui avrebbero lavorato tutti, ognuno a modo suo. Era questo il sogno di Jim. Dati quattro esseri diversamente legati dall'amore, perché il risultato sarebbe stato necessariamente la discordia? Kate non tradiva Jim nell'essere affettuosa con Jules. Jim non tradiva Kate nel conservare a Gilbert la sua tenerezza. Le due donne potevano conciliarsi in lui e non toccavano le stesse regioni del suo cuore. Che potessero lui e Jules conciliarsi nello spirito di Kate. Che potessero Kate e Gilbert non diventare nemiche. Jim aveva sempre parlato di Gilbert alle donne che aveva amato nel corso dei suoi viaggi all'estero e l'aveva descritta in un modo che aveva suscitato il loro rispetto. Aveva raccontato di lei a Kate all'indomani della loro grande passeggiata. Kate aveva manifestato una certa ironia su quel loro lungo affetto senza avvenimenti, che trovava prudente e rassegnato. Non esistevano per Kate aggettivi peggiori. Jim propose un assioma. Jules equivale a Gilbert. Doveva scoprire in seguito che Kate ne aveva adottato un altro. Gilbert non equivale a Jules. Gilbert occupava ai margini della vita di Jim un posto di cui lui ignorava l'importanza e Jim non credeva che la sua passione per Kate avrebbe dato a Gilbert un dolore irreparabile. Kate e Jim decisero per lettera di affrontare il matrimonio per avere subito dei figli. Jules era d'accordo a fare quel che loro avrebbero voluto e a divorziare in fretta. Stabilito questo, Jim raccolse quello che credeva il suo coraggio e parlò a Gilbert. Le disse brevemente di Kate, del loro desiderio di avere un figlio, di sposarsi, e del consenso di Jules. Gilbert conosceva bene Jules dai racconti di Jim senza averlo mai incontrato. Stette ad ascoltare Jim tenendosi ben dritta senza battere ciglio. Alla fine disse: «Mi affretto a dare il mio consenso finché ne ho ancora la forza». Appoggiò un attimo il busto alla spalliera del divano, si alzò e uscì. «Non fate soffrire Jim», aveva detto Lucie. «Ho commesso un assassinio», sentì Jim in un lampo, ma un'ora dopo già sperava. «Si abituerà». Fece a Parigi qualche piccolo addio. Kate trascorse l'inverno con Jules nel loro chalet coperto di neve. Era la fidanzata di Jim affidata a Jules. Domandava ogni giorno a Jules: «Credi che Jim mi ami?» Kate scriveva, come aveva promesso, la loro storia dell'estate precedente. Con un'intensità sorprendente raccontava quel che era accaduto in lei, intorno a lei e tutto quello che aveva fatto, compreso Albert. Jules vi trovava la chiave delle tempeste e dei maremoti di Kate e la incoraggiava. Arrivò marzo. Jim si procurò un lavoretto nel paese di Kate. Fece la traduzione di una commedia che lì era stata accolta con successo e accettò di andare a stare una quindicina di giorni in campagna dall'autore per ultimarla. Provava anche, come prima di rivedere Jules, un bisogno di ritardare l'avvenimento, come per prepararsi pur marinando la scuola. Kate trovò che Jim non aveva molta fretta di rivederla. Jim, in compagnia del suo drammaturgo, passò per la città di Kate. La chiamò. Kate andò con Jules a prendere il tè all'albergo di Jim. Era leggermente ingrassata per aver scritto tanto nella sua stanza. Arrossiva quasi di andare così in veste di fidanzata portata da Jules, come una giovenca al toro, disse lei più tardi. Jim non fu il suo Jim. La riceveva in un luogo pubblico e aveva venduto il suo tempo come un servo a un estraneo che poco dopo se lo sarebbe portato via. Kate, nel pieno della sua bellezza, si credette meno bella. Jules sentì che quell'incontro era nefasto. Jim spiegò che lavorava per Kate, ma contava questo per lei. Lui avrebbe dovuto lasciare tutto e venire subito alla sua presenza reale. Kate fece a Jim qualche domanda vaga sugli addii fatti a Parigi. Lui rispose in una maniera che credette soddisfacente. La vista di Kate lo aveva impressionato. Avrebbe voluto non lasciarla più, ma aveva preso un impegno. Tre settimane più tardi ritornò finalmente allo chalet. Kate non c'era, era appena partita per affari anche lei e sarebbe rimasta qualche giorno da sua sorella nella capitale. Jim, benché deluso, trovò questo normale. Jules no. Quando Kate prendeva distanza, era sempre pericoloso. Jules descrisse a Jim Kate che scriveva il suo diario. Non l'aveva mai vista così. Era stata ferita nell'apprendere durante il loro tè in città che Jim aveva scritto su loro due una gran quantità di appunti, ma che non ne aveva tratto un libro. Kate scriveva lettere brevi, rimandava il ritorno, parlava di affari come Jim. J Jules e Jim erano completamente soli nello chalet, con tutto il loro tempo a disposizione, con la loro vita calma e la loro interminabile conversazione. Una contadina andava a sbrigare sommariamente le faccende. Jules traduceva un libro di Jim. Jules cucinava, pipa in bocca e faceva rosolare le patate, mentre Jim leggeva ad alta voce. Facevano delle lente passeggiate. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.